Per quale motivo? Perché dovevamo andare a parlare con l'informatore, no? Se non ricordo male. Dovevamo andare a mangiare. Dobbiamo andare a mangiare prima. Abbiamo beccato degli L'informatore era ubriaconi nel per strada. pomeriggio. Sì. Abbiamo beccato degli ubriaconi per strada. Non so bene cosa è successo con loro, ma perché poi sono andato giù un attimo, quindi mi sono perso la scena, però suppongo non sia successo niente di grave, se no l'avrei saputo. Siamo andati avanti, abbiamo scelto quale strada prendere, in realtà l'abbiamo fatto prima, poi siamo arrivati ad uno dei ponti di Apeira, con uno dei canali di Apeira, quello centrale, perché ce ne sono tre, uno più vicino alla... cioè sono uno... Ognuno è più distante dalla centrale. Abbiamo visto che c'è della fauna tipica di Apeira, almeno per gli ultimi 20 anni. Creature mutanti, ibride, che infestano le acque della città. Sono delle nutrie miste a polipi, per qualche motivo. Non presentano altre deformazioni dovute a, non lo so, l'inquinamento delle centrali con i funghi oppure robe metalliche. Dopo un'attenta analisi di lieto, che ha avuto modo di fare perché si è buttato innanzitutto Adone nell'acqua come un infame. Adone se l'è portato dietro. Sono finiti entrambi nell'acqua. Dietro è stato afferrato da una di queste nutrie. Ha creato un vulcano per tirarsi su dall'acqua. Nibel ha tirato su dall'acqua con la corda Adone. Dietro è stato afferrato da una di queste nutrie. Nibel ha afferrato la nutria e gliel'ha strappata di dosso, rovinandogli i vestiti. E poi ha preso la nutria da una dei tentacoli e l'ha sbattuta multiple volte contro la ringhiera per ucciderla. La FASPA ha avuto successo. È stata spappolata. Abbiamo controllato l'anatomia della nutria, o almeno quello che ne rimaneva. E poi l'abbiamo scuoiata sul posto, tra l'altro. Quindi abbiamo la pelle di nutria morta. Scoiata sul posto. Sì. Inizia così la sessione. Avete. Qual è la reazione di Adone a tutto ciò? Sì, vai, vai. Oddio. Cosa di Elio? Scusate, No, non mi so tira. scrivere. Avete sentito il mio urlo virile? No. No. Ok, meglio perché mi era caduto il farsi dal comodino. Ok, allora Forse aspetta, dentro. prendo la camera. Sì. Eccoci. Cucina. No, cuscino letto. Cuscino letto. Letticino. Quindi rispiegatemi, cioè, allora io immagino che Adone è stato tirato su, attossito per un pochino, anche perché ha la costituzione di un bambino vittoriano morto di colera. E quando rialza lo sguardo, vedi voi che state scuoiando la nutria. Sì. Loro, precisamente Nibel e Lieto. Dietro lo sta guardando, Nibel è lì che scuoia la nutria. Anche Siete su. Mito sta guardando. Nel caso ti fossi dimenticato l'area, siete su una specie di corridoio di metallo al lato del ponte che è costruito per farci passare il treno sopra. Cioè, questa cosa qua è un accessorio per far passare le persone, ma non è una roba larga. Adone, guarda un attimo. Loro si alzano e dice: ma proprio qua dovevate farlo, non potevate aspettare di spostarci? Non abbiamo Poi c'è dato l'acqua. fastidio a Poi nessuno. C'è l'acqua, possiamo lavare la pelle direttamente qui. Senso, vuoi ributtarmi in acqua come ha fatto Lieto? Mi tiro dietro alla nutria e do una bella lavata, faccio la bella lavanderina? No, sei No, no. pesante da alzare tu. Beh, sai com'è, Adò? hai le ossa piene adesso. Il pugno a sinistro si avvicina come a volertelo dare sulla spalla. Mifu che ti guarda con gli sguardi tipici di sua madre, no? Moira Coded, e ti fa: avanti, fallo, fallo. fallo e ti addormento di nuovo. C'hai del mana da sprecare o lo dici sì, per c'ho del mana da sprecare. Ha del mana extra in tasca e non so cosa fare. Se... Vediamo, aspetta. Ho 8 di mana in questo momento. Ne bruci 4 per far sta cazzata? No, certo che no, dai. Cosa volevi castare? Ti ho detto fallo e ti addormento di nuovo. Che bene. Ti voglio dare un... mamma mia. No, le hai dato il buffetto, però non ha fatto nulla. Comunque, vabbè, continuate con ciò che state facendo. Sono interessato anch'io alla creatura. Un animale spogliato. Cosa vai, facciamo il primo roll della serata. Sei su Roll20. Ah, cazzo, io non l'avevo fatto partire. Cioè, avevo aperto Roll20 e non l'avevo preso via. Rolla intanto, se ce l'hai, Eddie. Aspetta. Sì, con calma. E a voi l'avevo fatto già rollare, credo, per analizzare... Non era già fatto. Sì. Mi ha rollato bassissimo. Sì, mi ricordo. Ridicolmente bassa, è uscita. Sì. Dai, buone a tirare su la serata con il suo uno. Esatto. Uno di routine. Quick start. Se andiamo a vedere dei roll, tu hai fatto dei roll tanto alti negli ultimi 4 sessioni. No, te li tieni buoni per quando dobbiamo fare i fight. E un di natura che hai 3. Ok, dai. Sto arrivando. Con questa musica così melodica a scuoiare una nuova. Qual è questa? La canzone di... Deltarune. Ah, di Underfield, sì, direi. Ma è Castle Town, no? Sì, credo. Aspetta, My Castle Town. Nessuno più froce di me. È un pochino sì, però è per questo che ti vogliamo bene. Bene. Ora, questa sessione io vi giuro che vado a parlare da qualche parte, però vediamo. Non credo, e che detto questa cosa non è prima il pranzo. Ho bisogno di trama. Esatto, oh, ti vedo on. Ci sono. 12. Che culo. Allora, hai concepito dei piatti tipici di Apeira? No. Adone si ricorda gli studi di suo marito. E quindi nota che la prima idea, ora io dico di Nibel, in realtà è di Os, che sia una chimera non è del tutto corretta. Nel senso che una chimera sarebbe due animali incollati. Qua invece sembra proprio che la struttura della... io la chiamo nutria però, del ratto d'acqua, si sia evoluta in quel modo. Akin to le balene, che hanno delle zampe dietro, che sono neoteniche, credo sia il termine, vestigiali, e che non servono un cazzo. E queste tentacoli sono una roba del genere, cioè sono parti del corpo che si sono evolute a formare quelle cose lì, a partire da o le dita o comunque altre parti del corpo della nutria. Quindi in realtà non è related in nessun modo ai polpi, è più una convergenza evolutiva. Cioè, è funzionale avere i tentacoli in quell'ambito. È un po' come gli animali, se possono si trasformano in granchi alla fine. Cioè, se inizia alla fine si deve fare tutta la catena alimentare come Zoidberg. Quella delle balene è un'involuzione in realtà. Sì, è vero. Sempre posteriore. Mi viene come altro esempio, mi sembra le cavallette e le tigri, che hanno la stessa struttura delle gambe posteriori, che usano lo stesso tipo di leve, però non sono minimamente related, è solo che è la cosa più funzionale per muoversi in un certo ambito. Qui è uguale, cioè sono tentacoli. Banalmente pipistrelli e uccelli, sì, entrambi possono, esatto, volare, comunque esattamente. Sono evoluzioni di convergenti. Sì, sì, infatti anche proprio come sono fatti i tentacoli non sono fatti come i polpi o le seppie, e il modo in cui si muovono non è lo stesso, cioè sono funzionalmente ma uguali. Non no, Cioè, hanno Sì, delle cartilagini, solo fibra muscolare. fibra muscolare, cartilagini, e c'è una specie di parte vestigiale che probabilmente inizia con un osso e finisce con questo miscuglio di tessuti vari. Inizia con un osso. L'ho detta, basta. Adone condivide queste informazioni dovunque con voi, proprio dicendo, se ricordo bene gli studi di mio marito, questa praticamente dovrebbe essere un'evoluzione, e mi spiega un po' le cose che ha appena detto Bianco, sostanzialmente. Tuo marito, cosa vorresti dire? L'avrebbe chiesto. Ma lo dice No, veramente. no, siamo in Grecia, è normale. È normali, è vero, è normalissimo. Normalissimo. Miff, Beh, se se vuoi ci essere pensi. l'omofoba. No, no, no, no, no, era più curiosità. Tuo marito? Chi è tuo marito? Silas Uhtred. Non so se tu ne abbia sentito parlare. Master Dosh, Rolla. ok. Sì, Tecnicamente però rolla per memoria, non per è infatti passati. storia, quindi No, no, rolla puro su mente. Più 3. ok. Non Che so, comunque è paura. sempre più 3. 5. 5. Ti dice qualcosa? Forse l'hai anche conosciuto da qualche parte, non ti ricordi i dettagli. Ah, mi scala. Sì, penso di averlo sentito. Sì, comunque è più famoso nella mia città natale, non ha trattato di temi che credo riguardino la tua ricerca. Ah, i temi della mia ricerca non li trattano persone, come dire, di questo mondo, ecco. Di questo no, nel senso, cioè, del mondo Accademico. moderno, esatto. Adore gli viene un attimo una risata. Cioè, scusa, non volevo ridere. Però l'hai Grande. fatto. Infatti, mi scuso. Comunque, tornando sull'argomento dell'animale scoiato. Povera Queste creatura. credo siano un po' le cose che posso dedurre da così. Bisognerebbe fare uno studio più approfondito per capire più. Cioè, posso dire che studiandolo di più ci capisco di più, o secondo me quello lì è. Serviva uno specimen vivo per farlo. Ah, ok. Beh, andiamo qui, Allora. ne bisognava. No? No, Allora vabbè, diciamo. ragazzi. Non è meglio andare a mangiare. I guess. Oh, vabbè, Sì, ma comunque. qui qualcuno di voi mi riesce ad asciugare? E intanto c'è Adone che è lì fradicio ancora. Se è possibile. Dovrebbe esserci del magma davanti a lui, no? Certo, fireball. Asciugare mi sa di no, però cioè, in effetti il calore che ha sprigionato coso ti ha. Non hai freddo, sei solo umido. Vabbè, volevo essere umido in un altro modo. Spiace. Se cioè, qualcuno vuole, ti può tamponare con della stoffa, però a loro. Sì, che dobbiamo chiedere i barboni. Uè, scusate! Cioè, Beh, potrebbe sgamato. essere Con un'idea. i danni che ha già fatto Boss ai miei vestiti, siamo lì. Vabbè, allora torna a questo punto. Io ti ho aiutato. Innanzitutto. Mi ha aiutato. Ok, siete sul ponte. Più o meno avete capito tutti, non solo Nibel, la strada che dovete percorrere. Sarebbe seguire il fiume. Se avete la mappa davanti, siete qua. Dovete seguire questo percorso per arrivare fin qui. Ok. Perfetto. Beh, direi di incamminarci, magari con un po' di sole ti asciughi. Sì, lo spero, non vorrei andare a pranzare Non so se l'hai detto ironicamente, ma l'ultima volta vi avevo ricordato che era brutto te, cioè era nuvoloso. Cioè, si è notato. Esatto. I remember that. Miff sorride e indica lieto e fa: beh, sicuramente farai una figura migliore di chi è parzialmente Eddie, tutta la no! famiglia. No, cosa? Perché hai tolto la cam? No, è che mi sto muovendo per andare a prendere le mie cuffie al Ah, ok. Bluetooth e non volevo farvi vedere il mio quadruplamento, tutto qua. Lo capisco. E Però mi sembra. allora, io non me la sono scritta sta cosa, quindi credo andrò un po' a memoria. Il fiume è alla vostra destra, lo state costeggiando dopo aver superato il ponte. Davanti a voi, appena scendete dal ponte, diciamo, avete sulla destra il fiume, sulla sinistra la ferrovia che arriva fino a una piccola galleria, vabbè, una galleria diciamo, che scava all'interno di una montagnetta, collinetta, la quale ha sopra una struttura artificiale, rettangolare. Posso dirvi la versione del mondo reale, così facciamo prima, è il cazzo di Partenone. Ok. Qui, però, a differenza del mondo reale, no, non è mezzo crollato, cioè è funzionale, è intero nel suo massimo splendore, ha una quantità aberrante di colonne che lo circondano. Voi siete giù dalla montagnetta che la vedete da lontano, quindi c'è tutta la scalinata che sale da questo lato qua, mi sa che non c'è la scalinata, no, da questo lato c'è la scalinata interna, quindi c'è tipo un edificio, non si vede la scala, però si vede in cima tutta la chiesa gigante, cattedrale, credo sia una cattedrale, gigantesca, molto bella, molto affascinante. E ci sono altri piccoli edifici in cima e qualche albero. E volevo chiedervi se avete commenti, robe da fare, altrimenti vado avanti. No, Anche direi che verranno. l'ho visto di persona il Partenone, è molto bello. Ed è molto grande. Adone guarda incuriosito perché ovviamente non ha mai visto quelle cose lì dal vivo, però cioè, Io parlavo ci come sta un po' host, cioè l'ho godendo. visto di persona, quindi. Io l'avevo capito. L'avevo Ah sì, compreso l'avevo anch'io. capito. Che figata. È un'esperienza da fare quella. Scusate, andiamo avanti. Boh, se Nibello vuol dire gli altri, è intitolato a Diru Apeira, che in teoria ha un altro cazzo di nome che non sto trovando. Però vabbè, la divinità del commercio sarebbe. E anticamente era una roba un po' strana dove c'erano sia commercianti che riti religiosi. Quindi una roba molto simoniaca per i nostri standard. He's staring at you. Però dico agli altri. Quando ero al cimitero, che ho chiesto delle informazioni ad un prete che stava lì, mi ha chiesto di se volevo ottenere dare in Ottenere? questo tempio qualche informazione delle Hai centrali. laggato, hai laggato, ci siamo fermati ad ottenere. Ok, non so cosa sia successo. Per ottenere delle informazioni riguardo le centrali. Mi ha detto di andare in qualsiasi tempio tranne che in questo. Mai, tranne che in questo? Non ne ho la più pallida idea, però evidentemente ci sono persone qui dentro che non sono disposte a parlare male dello status quo. Magari quelle di cui ci accennavano gli amici I di prima? tizi neri, esatto. I tizi vestiti di nero. Quei maledetti tizi neri sono dappertutto, ci rubano il lavoro. Antisovietico, ragazzi. Per questo non parlano delle centrali, non vogliono che gli rubiamo il lavoro. Layer, eh? Eh sì. Sarebbe allora il caso di dare un'occhiata. Scusate, ho bisogno di un attimo. Anche due. Sono media. Hai preso di nuovo gli antistaminici? No, no, no, è a Sì! Davvero? L'ha preso oggi. Sì. Vabbè, minchia, ti è passato l'effetto. Ma che hai, Djanic? Eh? Mamma mia, hai dei capelli lunghissimi, guarda lato. Sì, crescono. Che troia. Vabbè, perché? Che sta cercando di riprendermi, però non aiutate nemmeno. No. Ok, allora, stavo dicendo, Miff allora si rivolge a Nibel e gli fa, beh, proprio perché non sono disposti sarebbe l'ideale da andare a dare un'occhiata, magari sfugge qualcosa. Sì, a meno che non facendo le domande sbagliate non rischiamo di andare incontro a qualcosa di peggio della corona nera. No, infatti, fingiamoci dei turisti, banalmente. Oppure siamo gli occhi al cielo, tutto quello di non mangiare, va bene. No, non intendo, possiamo farlo anche dopo, cioè, nel senso, io ho fame e sentite dalla pancia di Mimi. Cosa sì. Vorreste mangiare? Stoga, no. Wow. Dov'è Adone? Non lo vedo più. Sono qua. Okay, ecco, ecco. Madonna. Sto un po' laggando, vabbè. E tu? Sì. Sì, arriva in ritardo la risposta. Ma Optimus Prime da quando è arrivato? È Starscream. Starscream. Sta un po'. Lo vedo lontano e piccolina l'immagine di Eddie nel mio schermo. È ingrandissimo. E... avrete tempo per scegliere dove mangiare quando arrivate nel quartiere. Io ho un'altra scenetta. Non è proprio un bosco questa zona, però ci sono degli alberi, c'è un po' di vegetazione. In the back of your mind si palesa l'immagine che questo è un buon posto domani per nascondersi, perché comunque sei in mezzo a tante cose confuse, c'è una galleria, c'è un fiume. È un po' un luogo pericoloso, probabilmente non escludete che ci possano essere dei banditi che si mettono qua, però è poco trafficato, quindi allo stesso tempo non ci sarebbe motivo di fare un agguato. E l'acqua del fiume scorre intensamente, non è tranquillo né asciutto, si vede che sta per arrivare una piena, con le prossime piogge non forse esonderà comunque una stazione del genere di rigonfiamento, e anche le creature che ci vivono sono molto calme, perché quando l'acqua è mossa cercano di nuotare il meno possibile, e non si può dire lo stesso degli uccelli, che invece volano allegramente tutto intorno. Andando avanti, sulla destra avete le mura cittadine, oltre il fiume intendo, queste sono belle integre, non sono diroccate. E ci sono degli alberi sulla piccola collina che separa il fiume alle mura. Dall'altro lato invece avete il pezzo di collina che si collega poi a quello che abbiamo chiamato il Partenone, che sarebbe la cattedrale di Diro Apeira, e vi colpisce, passando da qua, che è appoggiato a uno degli alberi, che sembrano quasi sfidare la gravità, crescendo con un'inclinazione di 30 gradi rispetto alla parete, un uomo che vi dà le spalle ed è appoggiato a quest'albero, e anche lui è messo in un modo caprino, nel senso di con le punte dei piedi sulla parete verticale, in qualche modo riesce a rimanere in equilibrio senza cadere, con un braccio teso lungo l'albero e un lungo drappo di stoffa azzurro che col vento forte che c'è sventola, mostrando quasi per tutto il tempo che sotto di esso non indossa nulla. We got a picture. Ma è nudo? Sì, a parte questo drappo azzurro. Ma è un signore malato di mente. È un signore appeso, cioè attaccato... Ah, è normale, no. Da bere. Normale, esatto. Non particolarmente, non meglio. I am no artist. This is a uno scarabocchio. e ve l'ho mandato sul gruppo. Vi dico che ha i capelli chiari, grigi. Ciao. Più sul bianco che sul grigio, ha dei tatuaggi e è peloso, cioè non in modo disumano, ma è un uomo hairy e i suoi peli sono molto chiari, cioè tra il biondo e il bianco. A parte per il colore, il fisico, la struttura, eccetera, è quella di un uomo sui tra i 30 e i 50 di spalle, quindi fate fatica a dargli un'età. Però avendo i peli bianchi sembra più vecchio, quindi lo collocate tra i 40 e i 60. Non vi ha notato e sta guardando sembra o nella direzione della cattedrale di Ruapeira, quindi dal vostro punto di vista è difficile guardare se sta guardando effettivamente la struttura o qualcosa intorno, però in quella direzione lì. Vai. No, vai, vai. Lieto gli tiro un fischio e un urlo. Ehi! Comiti! Che cazzo ti sembra il momento? Il caso? Un minimo di decenza. Lieto! Ho una Lieto! Puoi domanda. sempre guardare dall'altra parte. In che lingua lo dici? Hai tre alternative. Eh sì, però... No, vabbè. Sarebbe la mia. Ok. L'uomo, sentendo le grida, si gira incuriosito, proprio puzzled, mi viene come termine, e guarda nella tua direzione, lascia andare l'albero e si fa cadere all'indietro, e cade molto lentamente, quasi cullato dall'aria, come una foglia che scende, e atterra con una leggera piroetta per girarsi nella vostra direzione, col mantello che finalmente lo copre mentre è appoggiato a terra. Sì, Tanto cadendo mi sa che abbiamo visto tutto. tutto. È well endowed, se ti interessa. Perfetto, bene. Della virtù meno appariscente. Fra tutte le virtù, la più indecente. Abbiamo citato anche a De André, siete contenti? Wow. E notate che ha i tatuaggi su tutto il corpo, sia davanti che dietro. In particolare, direi Mif, nota che ha dei tatuaggi sulla faccia che fanno questa cosa qua. Te Ok. l'ho detto en passant. Ha la barba anche davanti, eccetera. Vi Ok. guarda e parla una lingua che sembra una versione arcaica, dialettale della lingua di Apeira, quindi la capiscono solo Nibel e a strappi e bocconi Lieto. Voi due non capite quello che dice quest'uomo, ok? E quello che dice più o meno è: parlate la mia lingua. La lingua adesso uno stretch è bello lungo, però qualcosa qua si mastica. L'uomo si gratta la barba. Ho Caddito. bisogno che Adone mi rolli un D10. Intanto Ok, lui continua a parlare subito. e dice: mi sembrate familiari. Ho rollato un 2. La voce ti è familiare, ma non riesci a posizionarla. Non riesci a collocare dove l'hai già sentita. Sta parlando nella lingua di Apero. Sì, una versione, un dialetto che non ti è familiare ma che riesci a capire. L'uomo si tira su e lo rivedete nudo perché è comunque tirato su col lenzuolo che un po' lo copre, un po' no. E sta parlando appunto praticamente a tutti, però gli unici che lo capiscono sono Lieto e Nibel. E dice: Vabbè, mi giro verso gli altri, faccio sapere che sta parlando una lingua simile La lingua di Apeira è arcaica. oh, ok, c'è qualche modo per dirti di avere un minimo di decenza? E intanto vedete Mif che ha tipo la mano posta davanti, giusto per... Master, io ho mana per utilizzare la mia magia che mi fa parlare con le persone? Sì. O sono morto? No, no, ce l'ha il mana. C'hai due di mana. Every talk costa uno. Ok, allora vedete che Adone comunque un po' rosso in faccia, Cade. cade casta appunto la spell, Every Talk, e dice forse in... oh, scusa. No, no, l'unica esclusa ora dal discorso è Mif. Ok, e Adone dice, ecco, forse in questo modo riusciremo anche a capirci un po' meglio e soprattutto capire se ha bisogno di qualcosa, bravo uomo, dei vestiti per esempio. Gli stai, state comunicando ora con Every Talk? Sì, sì. E lui dice, la tua di voce mi è familiare. Ma prima, siete del posto, giusto? Io lo so. Esatto. E un tempo qua c'era un altro, un'altra costruzione, un tempio bianco. E che fine ha fatto? Un tempio bianco? Qua. Sì. Quadrato, più piccolo di quello, e indica la cattedrale di Dino Apeira, che da quello che sai qua da un paio di migliaia di anni. No, vabbè, un po' meno, però da tanto. Non credo di sapere di cosa stai parlando, non è che hai sbagliato il posto? No. Tra i due fiumi, lì c'è l'Acropoli, dovrebbe essere proprio qua. Strana situazione. Da quel che so, questo tempio qui ha almeno un paio di millenni. Alza un sopracciglio e aggiunge. Deve essere un sacco che non passo da queste parti. Cosa vorresti dire? Che... Hai più di 2 millenni di vita? Qualcosa del genere. Hai idea di in che anno siamo? Dice Adone. Non proprio. Mm. Ho letto un giornale, credo si chiami, e segnava l'anno 1622, ma non mi è chiarissimo quale sia il punto di partenza. Adone si gira verso Mif, che in tutto questo è stato tagliato fuori dal discorso, sì, sì. E dice, e parlando nella lingua che capisce Mif, dice, a quanto pare il signore non sa qual è la data di partenza del nostro anno, non sa da quando abbiamo iniziato a contare. Mi rollate tutti un di 10? Ok. Ho fatto 2 di nuovo. Io 3. Solo no, nivel, raga! Solo nivel. Noti che le foglie intorno a voi... È autunno, quindi tutti gli alberi perdono le foglie. Quando toccano terra, incominciano a risalire lentamente verso l'albero e quando arrivano a toccarlo, ricominciano a cadere. È talmente lento sto processo che non ci hai fatto caso fino adesso. Mm-hmm. Però, in effetti, cioè, le foglie sono un po' a mezz'aria per la maggior parte del tempo. Io do una pacca sul braccio a Mif e gli indico le foglie per fargliele vedere. Mif si mette a guardarle, tipo, strabuzza un attimo gli occhi e fa, ma avete chiesto il nome di sto tizio? No, non ancora. Come ti chiami? Kronos. I knew it. No? Il dio del tempo? No. Dove l'ho già sentito Kronos? È il tizio del cuore che ti ha visto vincere il cuore, cazzo, è lui! Ecco! Ce la fa. E a questo punto... Beh, ce l'ha fatta! L'abbiamo capito adesso tutti assieme! Non mi... Cos'è? Sara l'ha capito mezz'ora fa. Quando ti ha detto la sua voce la riconosca e ce la fa solo con te, è tipo, dai! È un tipo di 2000 anni, non dai! Lo so. We get back Kronos, no, non so come fossero le sue usanze ai tempi, però al momento qua si usa coprire le parti intime. Si guarda in basso, vi guarda tutti i vostri vestiti, dice, ah, e fa un nodo su questa cosa che quindi gli copre effettivamente quello che deve coprire. Però, Ora cioè, sarà sufficiente. sì, se lo guardi da sotto si vede tutto lo stesso. Questo intendo. Ah, dovremmo trovare dei vestiti e un metodo per comunicare efficientemente. Non capisco Sì. niente di ciò che voi dite. Lui guarda Adone e dice: non è l'esemplare più rappresentante della specie, ma è una donna, vero? Adone Fortunatamente sì. dice sì, è una donna. E va in giro così, senza Tempi sono velo, cambiati. parla con Vedi, gli Cronos, sconosciuti. credo che veniamo da delle culture e da dei tempi molto diversi, diciamo questo. Lo sto notando anch'io. Che ha detto? Mi fai intervenire tipo, che ha No, detto? non è importante. No, no, ti ho Davvero? detto che solo gli piace come sei vestita. Niente di che. Mi guarda intensamente e fa, beh, si guarda un attimo, ti liscia la camicia e fa, grazie, penso. A questo punto Don dice... Cronos, ti va di seguirci? Credo sia il caso, ma soprattutto devo trovare il tempio. Il tempio è quello che stavi cercando in questo posto, vero? Sì, era collocato più o meno qui. Ho delle brutte notizie, guarda. Dubito esista più. Il genere di templi che veneravo io non spariscono, al limite sprofondano. Che tipo di tempio era? Aveva un nome? Aveva delle colonne bianche di marmo. All'interno, un paio all'esterno, un paio sulla porta. Può darsi E che ci abbiano costruito sopra questo, non sarebbe la prima volta sì, infatti, nella storia, diciamo. credo che dovrò scavare. Posso chiamarvi amici? Sì, ha detto che siamo suoi amici. Ah, bene. Dai, Credo di almeno non ci prenderà. ricordarmi del giovane uomo, dell'uomo che mi sta parlando. Gli altri immagino fossero quelli insieme a te nel luogo dove sono stato sigillato, giusto? Sì. Esatto. Non voglio interrompere qualunque cosa state facendo. Cercherò un modo di accedere al tempio. Prego. Beh, nel caso ti dovesse servire una mano e insomma, non vorrei ti mettessi nei guai, eventualmente indica la chiesa, scusatemi, io mi sono un attimo confuso, la chiesa dove siamo arrivati noi invece, quella del sole, è Sì, da un'altra parte. molto più a nord. Ok, però la si vede secondo me. Perché è una No? chiesetta piccola in un quartiere pieno di Ah, palazzo. merda. Vabbè, eventualmente dico, com'è che si chiamava? Era la chiesa Yelos. di Yelos, ok, gli dico, eventualmente indico la direzione più o meno, in quella direzione là ci dovrebbe essere la chiesa di Yelos e un sacerdote sicuramente ti accoglierebbe. Noi siamo lì se hai bisogno di qualcosa. Un nostro conoscente potrà ospitarti. Ma qua nessuno si sta facendo dei dubbi sul fatto che fosse un... era un cuore che parlava Infatti, e no, adesso cioè... è una persona intera con tutta la parte della città. Adone ti dice, non è la cosa più strana che io abbia visto nell'ultimo periodo, te lo giuro. E la cosa che a me preoccupa è che, da quanto abbiamo capito, era un discepolo di alcune divinità. Ed è Quindi per non so questo perché non che mi parli vorrei di Yelos evitare che stavolta. andasse. No, ma vorrei evitare che sia in giro a fare cose che non sappiamo, quindi eventualmente no, se ci raggiunge... Non è il caso di avvisarlo di effettivamente come dire, assomigliare a noi. Mio Dio, i capi... Cosa vuoi mangiare? Cosa ha detto Ika? Cosa ha fatto? Ma se lo portiamo a fare un giro alla centrale? Ma perché queste idee? No. Beh, ha letto quello che ha scritto... Ha letto quello di Ika. Ah, vabbè, Ika, Dio cane. Ok, che Mif è un po' particolare, ma non fino a questo punto. Bah! Secondo me non conviene lasciarlo qui, se la gente lo vede scavare magari o lo trattano per pazzo o magari le autorità lo prendono, non so come funzioni qua. Se non altro possiamo tipo portargli dei vestiti. Sì, esatto. Lasciarlo scavare dubito, cioè non penso sia intenzionato a non scavare. Magari ci sono delle vie sotterranee. Io come scaveresti a mani nude? Sì, credo di non avere altre opzioni al momento. Beh, il tuo giorno fortunato, Ido, il mio piccone. Davvero? No! O magari Kronos, puoi seguirci con noi e possiamo aiutarti a sembrare più del nostro tempo, eventualmente dopo un lautopasto aiutarti a cercare questo tempio? No, è una cosa che devo finire più in fretta possibile. Come mai questa fretta? Ho passato molto tempo a non fare niente ed è... Sono stufo di aspettare. Cosa vuoi che sia qualche giorno in più? Perché non li passi un po' con noi? Ti assicuro che dopo tutto il tempo che ho sprecato è diventato intollerabile attendere ancora. Sembra che tu quel tempo l'abbia sprecato da solo, adesso hai un po' di compagnia. Quella di cui non ho mai avuto bisogno. Più che altro, Kronos, tempo sprecato... Per fare cosa? Tu cos'è che dovresti fare al tempio? Parlare con qualcuno. Domanda, Adone sa il nome del dio? Gli è stato detto? Mi sembra di sì. Nif? Arva? Sì. Ok, gliela devi... Falle la domanda, Mif. Se non te lo ricordi, falle la domanda. No, io me lo ricordo e lo so... E però mi viene il dubbio, Adone lo sa tecnicamente, cioè è per non fare metaplay. L'ha menzionato veramente sì. Tanto di sfuggita. Sì, boh, sì. Ok, l'ha menzionato. Va bene. In realtà Kronos allora... aveva detto il nome e tu hai fatto da tramite per dirglielo la Mif, quindi per forza di cosa lo sai. Sì. Ok, giusto, vero, perfetto. Allora è vero. Adone dice con Arva? Esatto. Qualcuno come te ha un organo intrappolato in qualche sfera d'oro? No. Credo non abbia più organi da un po'. Come pensi di poter comunicare con questo Arva? Una volta all'interno del suo tempio devo risolvere un puzzle e poi si manifesterà. Flashback del Vietnam! Più che puzzle, conseguenza di questa cosa? Più che puzzle dice qualcosa tipo... Enigma, indovinello, un termine del genere. Mif fa un attimo, cioè tipo, tra virgolette, alza la mano e fa: cosa stai dicendo? Ho bisogno di parlare. Dice quello che ha detto. Close, cioè parola per parola? Sì, diciamo abbreviato, però vuole incontrare Arva e vuole scavare nel tempio per trovare. Vedi che Mif si mette. Le mani sulle tempie, cioè tipo, avete presente le dita sulle tempie, no? E guarda di nuovo, esatto, guarda di nuovo Kronos e fa, ok, no, allora, per evocare Arva ha bisogno di fare cannibalismo su una persona, non glielo fai fare. Glielo devo dire? Dopo l'indie. Sì, fai un puzzle, però dopo devi anche ammazzare una... Cioè, devi mangiare una persona. No, il termine corretto è consumare. La vostra donna sta parlando un po' sacco. Tipo, Mip che prende a Adone fa... Fa Fammi comunicare con lui, ti scongiuro. Ho bisogno di parlare a quest'uomo. Scusami, è il fucking Kent? Posso castare su di lei? No. Infatti, quindi dice, aspetta, la nostra donna sta dicendo che in verità sarebbe un'ottima idea aiutarti e seguirti al tempio, sai? Se siamo in quattro, se siamo in quattro, ti aiuteremo a scavare più velocemente, giusto? Sì, non è una cattiva idea. Non escludo che ci sia un modo di accedervi da uno degli altri punti. Ho visto che hanno fatto un buco nella montagna, strano. Deve per passare. Sono gli scavi. Sono gli scavi, giusto, Bianic? Mi ricordo dal giornale. No, qua i buchi nella montagna sono la galleria per il treno. Minchia. Però dal suo punto di vista sono buchi nella montagna. Allora guardo... dice... Vabbè. Vai. Ho colto l'occasione per mangiare. Okay. Guardo Biff e le dico... Adone gli ha appena detto che vuole aiutarlo a fare le sue cose. Cioè, di mezzo il cannibalismo è una buona idea. No, è vero. Madonna. Bello. Adesso vuoi aiutare a scavare e a fare l'indovinello, perché prima o poi qualcuno dovrà mangiarselo, se è effettivamente vero la cosa. No! Mi penso che non si vuole offrire nell'aiutarti a scavare. Andare a parlare con Farlo sto nella perdendo. Lingua comune a tutti, che però non è la lingua del paese. Avendo Evritol puoi fare quello che cazzo vuoi. Aspetta, no, allora posso parlare telepaticamente a tutti e quattro? Sì, sì. Ok, allora gli urlo in testa agli altri. Cioè, non ho capito, parlare telepaticamente a chi? Non è telepatico, parla a tutti e solo voi quattro capite. Ah, ok. Sì, esatto, solo cioè... A questo punto Tony dice, sto cercando di fare in modo che andiamo con lui, visto che nessuno di noi vuole che lui faccia cannibalismo su qualcuno, magari seguiamolo. Lo faccio di noi, questo... dici? No, seguiamolo, fermiamolo in qualche modo. L'ultima volta non è andata bene e mi è successo davanti agli occhi, quindi non... no. Perché ogni cosa strana l'hai fatta, Miff? Faccio notare che questo è il tipo che ha cambiato, cioè, che ha mandato avanti il tempo per noi, perché è associato al il tempo, credimi, non è una bella persona. Up and about, nel senso che se c'ha voglia di ammazzare qualcuno probabilmente ammazza qualcuno, non era magari sapere... Sì, siamo tutti d'accordo. Per quale motivo dovremmo fermarlo? Effettivamente. Nessun umano in più, nessun umano in meno. Miff? Abbiamo visto dei tossici qui vicino. Ne possiamo portare uno? Il lieto? E così almeno siamo sicuri che ammazza uno di quelli, non uno di... Un bambino, qualcuno di uno ricco. Oh mio Dio. Qualcuno di utile per la società. Quale sarebbe... La cosa peggiore che può accadere se dovesse evocare questo dio? Qualsiasi cosa, letteralmente, se è un dio del tempo abbiamo visto gli effetti. Peggio di quello che già succede da Peira e nel resto Non lo so, diciamo che questo dio è stato capace di fare un piccolo backtracking, un po' di ritorno indietro nel tempo per evitare che ci fosse un attentato al treno che è sceso. Che mi ha portato qui, mettiamola così. Quindi alla fine ha fatto una cosa positiva, però. Così ha fatto anche cose buone. Non lo dice Adone questo, non lo dice. Però visto che fissa niente fa, tu non hai idea del prezzo che abbiamo dovuto pagare. E comunque io non deciderò della morte altrui, però per me si può fare. si può fare seguirlo o lasciarlo andare da solo? Si può fare aiutarlo, si può fare lasciarlo andare. Onestamente ho paura che sia uno di quei soggetti che magari mettono dentro le centrali. È l'avatar del suo dio. Sei l'avatar del tuo dio? Lo sono stato. Ok, hai detto che lo è stato. Oh cazzo. E Adone riparla a Kronos, dice... dicevi... No. Pausa. Ok. Cioè, per, non so quale sia la vostra cognizione di questa cosa a livello di background, ma lo sono stato non è una risposta accettabile. Infatti beh... Adone dice... ok, grande. Dice, in che senso non lo sei attualmente? No. Hai cambiato dio? Chi è? Di esserlo? Vorrei tanto scoprirlo anch'io. È una delle cose che devo chiedere. Una volta che avrai fatto delle domande, poi cosa succederà? Vedrò quale sarà la via che mi sarà indicata. Comporta dei danni? Comporta delle vittime questa cosa? Mai gente che non se lo meritasse. Al mio voto. Lieto. Stiamo parlando di persone per lo più innocenti? Oh, andiamo a cercare qualcuno che non è innocente. Sto pensando se Adone sarebbe contro o con la pena di morte. Bianic. Contro la pena di morte? Eh sì. Troppo liberal democratico. Comunista, capito? No, non c'è. Comunista è un po' esagerato, secondo sì, me. Sì, hai ragione. Però Kronos, hai detto che eri un avatar, giusto, di un dio? È corretto. Che conoscenze hai dei tempi moderni? Suppongo nessuno. Non sono nemmeno sicuro di sapere quali siano le vostre divinità. Non hai idea di cosa fanno? Hai idea di cosa fanno gli uomini moderni, agli avatar e agli dei? No. Telepaticamente? Ah, lo dico, lo dico. Lo dico, cioè al momento... Minchia. Li imprigionano, li usano come batterie. Puoi cercare di fermarmi se vuoi, fai pure. Infatti Adone ti prende per un braccio e dice, sei sicuro che sia la cosa giusta da raccontargli? Se trovassi l'opportunità per distruggere quello che ti ha distrutto la vita, la prenderesti? Beh. E Adore ti guarda un attimo un po' confuso e dici, non sappiamo abbastanza su questo tipo o sul dio per raccontargli cose del genere. Come cazzo ti pare, bot? Cosa abbiamo da perdere? Io e te potremmo morire da un momento all'altro. Tu nello specifico potresti morire da un momento all'altro, Adone. Anche Nivel non ha messo bene. Nivel non sta benissimo. Adone non sa niente di quello che avete fatto, quindi vedi Adone un po' titubante. Vi dice, per favore, però non rivelargli altro. Cerchiamo di capire cosa ne pensa prima. E guardo Kronos. Non volevo interrompervi. Credo di aver imparato le vostre lingue e fa l'exploit in cui dice il nome di ognuno di voi nella e una piccola frase nella vostra lingua. Tu devi essere Mif, tu devi essere Lieto, a giudicare da come ti chiamano. Nibel ci siamo già conosciuti. E Adone, credo che la tua lingua sia... e parla in una specie di dialetto arcaico scati, quindi una roba un po' strana. Ci sono quasi? Direi di sì. Sì. uno dei tanti trucchetti che il mio dio mi aveva insegnato. Ma li Oddio, che interrogativo. catturano. È interessante perché come fanno a catturarli? Questa è un'ottima domanda, alla quale non abbiamo ancora una risposta. Esatto. È presente il sacerdote di cui ti abbiamo parlato? Sì. Lui ha visto qualcosina che potrebbe essere una visione o chi lo sa. Potrebbe O la realtà. essere una scena di una cattura di un dio. Credo che mi servano più gli aspetti tecnici che non la visione di un esterno. Catturare un avatar. Mai sentito E niente del genere. probabilmente c'è la maniera per te per conoscere come fare senza disturbare troppe persone. E le conoscenze legate alla creazione delle centrali sono andate perdute nell'incendio della casa di coso, Correct Master? Nella casa di Celso, di Pseudo Celso. Pseudo Celso, giusto? È Pseudo una Celso tua è... congettura, però. Cioè, Ok. ufficialmente non si sa sta cosa qua. Tutti quelli che l'hanno letto hanno detto, certo, ovviamente i cazzi di Celso che ha fondato le centrali sono andati perduti. Però è come si dice? Congettura. Cioè. Congettura. In che città era la casa di Pseudo Celso? Viscola, credo. Ora te lo vado a cercare nei giornali. E vabbè, se ha il potere di alterare se, almeno parzialmente il tempo, potrebbe recuperare la conoscenza in questa maniera. Buon punto di partenza. Quindi, chi era costui? Era quello che è il luminare dei nostri tempi, il più grande mago e studioso della nostra generazione, quello che ha creato le Veria, scusa, centrali. non era Viscola, my Non bad. posso. Cioè, sono vicine come città, ma è un'altra. Quindi ho un punto di partenza. Rimango dell'idea che la mia priorità sia comunicare con Arva. Oh. Vabbè, noi andiamo a mangiare. No, lieto, direi che noi rimaniamo qua. Ok, Guido. E Biff a sto punto fa la domanda. Kronos, se mi permetti, ti faccio questa domanda. Ci sono altri modi per evocare Arva se non consumare un corpo? So di cosa stai parlando. Mi tipo fa, huh? Ok, allora, a me è successa questa cosa in ordine per evocare questa divinità. Non solo sono stati completati numerosi puzzle, Gli scappa da ridere. Cioè, sta trattenendo, però lo vedi che gli sta scappando da ridere. mi fa questo tic all'occhio in cui è un pochino infastidita, tipo, e si gira verso gli altri come per dire mi sta prendendo per il culo apertamente, ma lo vedete, e fa, magari hai altri metodi più diretti? E da gran sacerdote potevo evocarlo semplicemente nel suo tempio svolgendo uno dei suoi stupidi indovinelli. Potevi, appunto. E adesso? Non trovo il tempio, è difficile scoprirlo. Va bene, dai, andiamo. Quindi niente corpo. Perfetto. Bene, Ah, hai ho la fame? coscienza pulita. Abbastanza, sì, grazie. Tiro un pugno all'albero, che era un fico. Mette i fichi. E Sì. c'è un effetto ottico molto strano, tipo The World di JoJo. E tutte le piante, tutti i rami bloomano in un istante e si formano a vista d'occhio, a velocità tangibile, dei frutti di fico, belli gonfi, belli allegri, belli pieni. L'ho già vista questa magia. Non mi Tieni. piacciono i fichi. Comunque, grazie. Non credo ci siano altri alberi da frutto. Vuoi mangiarti una pigna? Sono a posto così, mangerò dopo, non ti preoccupare. Lui ne stacca uno, lo sbuccia e se mangia. Di che ne prende uno? Non penso abbiano fichi a Branziga. No, ma i fichi sono relativamente comuni nel meridione, quindi non è una pianta aliena. Ah, comunque mi fanno prendere, mangia uno. Cioè, per capirci, il mandarino, l'arancia, quello che era più strano. Dolce, un sapore peculiare. C'è una vespa dentro. Mi si prende 8 danni. Minchia, amare. È allergica ai fichi. Esatto, alle vespe. Beh, ti servirebbero dei vestiti comunque. Magari le autorità in giro potrebbero farti veramente tante domande. Oppure direttamente, magari piccarti in solo quando parli tu, gli scappa da ridere. Mm-hmm. Cioè, non lo fa apposta. Cioè, è proprio una roba più forte di lui. Quando ti sente parlare, gli scappa da ridere. Wow, ma sono così divertente. Perdonami. Finché rimarrai qua, dovrai farci l'abitudine. Lo fa a me, cioè lo dice a me? No, lo dico a Cronos. Ah, ok. Farò del mio meglio. Ridere in faccia alla gente non è molto educato. Ai miei tempi non avrei riso in faccia alla gente. Ed i tuoi tempi lei sarebbe stata parte della gente oppure no? No. Lieto. Almeno abbiamo sistemato il problema, cioè, abbiamo capito perché ride. Questa modernità è peculiare. È peculiare anche vedere un uomo nudo in giro. Già. E credo di non avere altri vestiti al momento. Questi erano abiti sacri da sacerdote. Gli altri indossavano toghe. Nella mia città, che era questa tra l'altro, quindi credo che il nome sia rimasto lo stesso. Si chiama ancora l'Eterna, la città? Sì. Si chiama Apeira. Sì, l'Eterna. Ok. Io vi parlo telepaticamente in testa tutti e quindi mi dico, quindi ce ne andiamo? Non lo volevo mai aiutare, ha detto che non serve ammazzare nessuno. Chi ha parlato? Sento una gomitata di quelle cose. Le voci. Tu puoi comunicare con gli altri senza farti notare, ma gli altri non possono comunicare senza farsi notare con te. Certo. E attorno a questo punto dice, allora rimaniamo qua. Dietro sbatte gli occhi tipo due volte, molto lentamente. Tutto a posto, Lieto? Sì, è l'aria autunnale, è un po' secca negli occhi. È un sì, cosa cazzo? Era un sì. Okay. Vabbè, allora, Torne dice, allora ci incamminiamo con te, Cronos. Se non ti disturba. Io a seguire voi, se volete accompagnarmi. Dove pensate che sia più facile trovare un accesso? In uno di quei due buchi o dal Tempio Nuovo? I buchi sono per i treni. Lasciali stare. Esatto. Dal Tempio Nuovo, probabilmente. I treni sono dei mezzi di trasporto. Tipo delle carrozze, però molto grandi e meccaniche. Sono dei cavalli meccanici giganti. Più chiaro. Okay. Beh, anche carrozze meccaniche, c'erano le carrozze ai tempi, cioè dei carri. Però la ruota col carretto e il bue, però la carrozza no. Cacchio, sai. Basta, mi uccido. Sì, ho sbagliato termine, effettivamente. L'idea c'era, ma ho proprio sbagliato termine. Vabbè, allora andiamo avanti. Ma io so se per caso c'è tipo, che ne so, accessibile al pubblico una parte interna, tipo, che ne so, dietro il presbiterio, robe del genere. D10. Se c'è una catacomba. Su storia. Yes. La storia. La storia che era in cultura. Sì. Sì. Non ne ho la più pallida idea. Ma proprio non ci sei mai stato dentro. Chi ha mai visto una chiesa in vita? La prima volta che l'ho vista era quella di Yelos. Ma non sei un uomo di fede. Mi sono sposato in comune. Penso che la priorità sia trovare magari dei vestiti a questo buon uomo. Devi chiedere a Nieto per quello. Se non le vuole se non vuole il cappotto di pietra, io non gli posso fare niente. Ce l'avrebbe bisogno anche. Sai il cappotto di pietra? È litogenesi, è gli oggetti, ma sono fatti di pietra. Vabbè, Nieto, siccome hai bisogno di nuovi vestiti, perché non te li compri per te, quelli che hai li lasci a lui. I guess, se c'è un sarto in zona, possiamo andare, non c'è problema. Ma aspetta che allora, navigo nel mio cervello, perché adesso c'è un sarto in zona. Un sarto in zona, sì. Sembrerebbe che ci sia un sarto in zona. Aiuto ragazzi, c'è un calabrese nella mia stanza. Che gente. Allora. Bene, allora possiamo andare al sarto. E magari prendere un guanto in più per Adone, così potrà coprirsi la mano. C'è ragione. Signor Kronos, le dice qualcosa? E tipo prendo la mano di Adone e gli faccio vedere tipo il dito di metallo. Oh, ma levati! Ma tolgo la mano, che cazzo vuoi? La togli molto lentamente, però. È molto pesante. Porco Dio, tira addosso, ti vengo addosso col braccio. Sempre svita, molto lentamente. Svita. Posso vederlo? Beh, magari può ritornare indietro nel tempo. Io, per esempio. E gli mostra la mano, cioè ti sfilo il guanto e gli mostro le due dita meccaniche. E faccio vedere i movimenti. Ti prende la mano in modo deciso ma dolce. Mm-hmm. E controlla le dita, proprio cerca di piegarle, eccetera. E dice: lo lascio fare. Sembra causa di un diavolo o comunque di una delle loro sciocchezze. Tuttavia c'è qualcosa di diverso. Sì, non ho mai visto niente del genere. Hai mai sentito parlare di un della nascita di un nuovo dio, di un dio meccanico. Meccanico per le cose? Questo mi giunge nuovo. Non sono nemmeno sicuro di capire cosa intendiate, cioè mi manca proprio il termine, temo. Detto questo, no. Prima che venisse sigillato, le religioni si sviluppavano praticamente ogni volta che qualcuno faceva qualcosa di degno di nota, per cui non ci sarebbe stato però bisogno di... lo sviluppo di una religione implica anche la nascita di un nuovo dio? Sì. Ah, i fuochi d'artificio. Sono i fuochi d'artificio, non so perché, sono in un paese di 1800 cristiani. Fantastico. E comunque qualcuno ti ruba le piante, osso, sempre. Bene, qualcuno mi ruba tutte le piante. Essendo stato dall'altro lato per un po', credo di poterti dire che il dio raramente è qualcosa di importante, è solo un simbolo per qualcos'altro. Qualcos'altro? Cosa? Qualcos'altro. Nel mio caso era il pilastro del tempo. Era l'embodiment del tempo, quindi. Se okay. vogliamo. E questo invece? Ricorda qualcosa? Una malattia della pelle. No, e... non c'è traccia di niente diabolico, anzi ne ho visti molti come te. Ricorda vagamente una malattia che usava un'altra divinità, Meiklon. Ah. Oh. Incatato un Meiklon. No, non lo dice. No, ma mi fa... Perché funziona su di... Ah, e a questo punto... Manca una cosa da mostrargli e tiro fuori un manapenny. Oh, è vero! Ho visto la gente usare quelle monete blu. E sento che hanno una certa energia. Già ai tuoi tempi? No, ho visto in questi giorni. Ah, ma fanculo. Adore glielo dice. Adore lo manda così. Fa la figura del peso, però scusami. Ho visto dentro da non ti detto, ma fanculo. Le donne. Ci sono quelle. Wow. Immagini se Adone fosse stato trans. Sarebbe stato molto divertente. Tantissimo. No, dobbiamo chiedere a lui cosa ne pensa della gender machine. Nonno, cosa ne pensi? Mettiamola la gender machine più vicina. Ti fermo subito per ricordarti che questo è greco. L'ideale di bellezza in Grecia lo sappiamo tutti qual era e la vostra società l'ha distrutto. Soprattutto voglio sapere cosa succede se io lo infilo in una gender machine e metto malapenny. Cioè si suicida perché è diventata una donna questo. No, gli mettiamo un velo e gli dice che non può parlare. Fighissimo. Scusate, andiamo avanti. Viene da un'altra epoca. Mi hai fatto vedere un malapenny, ti ho detto cosa ne pensi. Cioè, i miei two cents. Ok. E questi vengono prodotti dal posto in cui vengono catturati gli avatar delle divinità, probabilmente. Cioè, sappiamo avatar, che non... Yeah. Esatto, non solo avatar, comunque anche probabilmente sì. diavoli. Mm-hmm. Comunque creature del vostro spessore, ecco, mettiamola così. L'hai catturato con sta cosa dei diavoli? Mm-hmm. Quanto ne sapete sui diavoli? È good amount, okay. Ma... La prima volta che ho sentito parlare che... di un diavolo è stata ieri. C'è tutto l'array. E se vogliamo definirlo a livello... No. Università... No, accademico. A livello accademico. Fino... L'idea che si ha è che in verità i diavoli non esistano e che sono tutte favole di vecchi tempi. Come anche le divinità. Esatto. Sì, ne sono consapevole. Ne sono diventato consapevole da un paio di settimane. Ok. Beh, comunque e in ogni mi caso, sembrano... C'è Vai. Qualche scritto accademico che riconosce l'esistenza di... Sì, qualcuno sì. Sì, esatto. C'è l'Accademia? Soprattutto c'è la Zenitai. Mm-hmm. E indico la spilla. O la Mistral. Com'è che si chiama l'altra? La Mistral, no. E il Mistral era il patrono maledetto. Vabbè. E quella che c'è qua è la Zenitauster. Comunque... No, hai detto accademia, ai miei tempi l'accademia era l'accademia a nord-ovest di Apeira. Ma quindi, aspetta, nord-ovest di Apeira non c'è coso, non c'è la mia città. Okay. Vabbè, figa, non così tanto a nord-ovest. Non lo so. A nord-ovest nel senso, riprendi Apeira, nella zona nord-ovest di Apeira c'è quello. Vabbè. Senza cambiare nazione. Ma... non sembrano così cattivi, e fa tipo tra virgolette, almeno quello che ho incantato faceva paura e basta. Era Adone, okay. Ti indica così la tua mano. Yadamaka era carino. Io ho visto un diavolo squartare gente, far esplodere, fare un genocidio, quindi non lo so. Io ho visto un diavolo squartare quello. Ma l'ha vista lieto? Uno, no. Gli hai raccontato? Sì, gli ho raccontato, però, cioè, Adone, come dice, sì, non sono sicuro, cioè, non è stato un diavolo direttamente, ma, insomma... Sull'essere buoni o cattivi non mi pronuncio. Quando ero un avatar erano i miei nemici ereditari, diciamo. Ovviamente. Sembra che per la scienza non ci sia differenza tra uno e l'altro. È strano, perché sapendo come funzionano c'è differenza. Quindi per loro deve essere... Come funzionano? Le divinità... prendono energia dai fedeli, i diavoli da loro stessi. Ah. Quindi i diavoli sono una fonte di energia? Prenne. Non proprio. Credo, non so i dettagli, Arva non me ne ha mai parlato, ma credo che qualunque sia il modo con cui le divinità prendano l'energia, i diavoli riescano a fare un cortocircuito e ignorare l'iter per cui bisogna passare per un gran numero di fedeli per generare energia. E allora perché hanno bisogno di contratti? Penso per noia. Ah. Onesto. Cioè, quindi ti chiedono la tua anima per una, non una sorta di... dettagli. Cioè, non voglio portarti fuori strada. So le cose che mi erano state comunicate e quello che mi serviva per eliminarli. Ok, tu sei decisamente troppo per questo mondo. E si gira verso gli altri. Non ha senso lasciarlo da solo a questo punto. Se la gente delle centrali può catturare gli avatar, anche lui è in pericolo. A prescindere, esatto, che non lo sia più, è comunque, esatto, una persona importante. Comunque quello che mi ha detto, quello che ci ha detto mi ha fatto pensare. Questo non renderebbe i diavoli delle entità superiori agli dei? Cioè lo dice ad alta voce o...? In realtà lo dico a Mif, però cioè, non lo nascondo. Okay. Sì, Mif effettivamente annuisce, fa. Effettivamente se hanno trovato un modo per bypassare il sistema... Se non ci sono più fedeli, le divinità non hanno più forza. Scusate, sta diluviando. Credo sia più complesso di così. Credo che le divinità siano necessarie per far funzionare il cosmo, mentre i diavoli... no. Quindi a prescindere da chi sia più indipendente o più forte... È più, credo, una guerra di ordine contro caos. Il fatto che adesso, nell'epoca moderna, la gente non preghi più le divinità, che pericolo pone per il cosmo, da come lo hai descritto te? Credo che il cosmo abbia dei sistemi di difesa autonomi, come la ferita quando si apre... si rimargina. Lo stesso succede al cosmo. La ferita in questo caso è la mancanza di fede. In qualche modo tutto ciò che serve per farlo funzionare tornerà. E ho una domanda per lui. Bianca, ci stai registrando questa sessione? Bene. Ottimo. E... registra questo. Vabbè, no, per i posteri Os ha fatto diversi diti medi in telecamera. Diti medi. Dottor Lieto. Il dottor Lieto vuole sapere, vuole chiedere se è a conoscenza di qualche divinità nata senza l'ausilio esplicito di venerazione da parte di persone. Cioè, tutte le divinità che conosce lui sono nate perché qualcuno ha scelto di pregare un determinato concetto e quindi è nata una divinità, oppure alcune persone credono in alcuni concetti e sono così formate le divinità. A un certo punto del tuo discorso, scegli tu quale, ti interrompe e dice Liviagon. Come, scusa? La dea del mare Liviagon nacque non per la venerazione, ma per il terrore che instillava nei marinai. Ok. Credo sia quello che stai cercando. Sì. È quella che pregava anche mio padre. Sicuramente più Zagon, perché comunque credo fosse per il dio dei pescatori, che è Zagon. Liviagon sì. È sua moglie nel mito. Ok. Ora, il mito è una stronzata nel senso più del resto, perché ci sono dei collegamenti tra le divinità che non sono coerenti, proprio come nel mito platonico, cioè diciamo greco, nel mito greco, se tu ascolti tre persone che ti raccontano il mito, ti raccontano tre versioni diverse, qua è uguale. Sì, perché era comunque tramandato vocalmente. Sì, esattamente. E quindi semplicemente Liviagon ha questi due aspetti, di essere la dea dei mostri marini, la moglie di Zagon, insomma c'ha tre o quattro attributi del genere. Potenzialmente la stessa figura, moglie e marito. Sì, anche. Aggiunge Cronos. Inoltre qualche decina di divinità minore l'ho eliminata io con le mie mani prima che potesse diventare pericolosa. Di quelle nate in questo modo e il cui nome è stato perso nel tempo. Ok. Quindi non dovresti avere problemi a eliminare persone normali? Ma da Avatar credo proprio di no. Da qualunque cosa sia adesso è da vedere. Per qualcosa riesci ancora a farlo, tipo la voce o le foglie? Sì, è solo questione di riprendere tutto il controllo. Anche il corpo l'ho rigenerato da solo. Mettiamola così, se ti aiutassimo saresti in debito con noi. Beh, in un certo senso lo sono già, mi avete liberato. La mia idea di... Scusate raga, io mi sono un attimo distratto. Ha detto del perché ci ha mandato avanti una settimana nel tempo, oppure... No, non l'abbiamo tirato fuori l'argomento. Ok, allora gli faccio finire il discorso e poi glielo chiedo. Pensavo che liberarvi dalla situazione di ateismo in cui vivete oggi fosse già un regalo. Più che altro, perché dopo che ti abbiamo liberato è andato avanti il tempo di una settimana solo per noi all'interno della chiesa? Il mio battito cardiaco scandisce il tempo dell'universo. O meglio, quando ero un avatar era così. Ora sembra avere un raggio limitato intorno a me. Stringendomi hai fatto accelerare il mio battito cardiaco aumentando la pressione e quindi ho accelerato il tempo intorno a me. Questo mi è servito per rigenerare il mio corpo e riprendere possesso di una parte dei miei poteri. Ah. Beh, capisco. Mi chiedo perché dopo tutto questo tempo Arma abbia voluto liberarti. Alla fine mi ha chiesto di entrare in questo tempio e di cercare questo manufatto che poi si è rivelato il tuo cuore, che poi si è rivelato in te. Che interesse potrebbe avere nei tuoi confronti? Oltre che appunto sei il suo associato. Arva è, per usare un termine che credo essere moderno, uno psicopatico. È difficile capire a cosa pensi di preciso. L'unica cosa è che i suoi piani sono sempre abbastanza precisi. È raro che lasci le cose nel caso più completo. E in genere ha sempre 3 o 4 piani di riserva. Beh, direi che ci muoviamo. E lui è diventato di vestiti per questo buon uomo. Io vi aspetterò qui. Esatto. Forse conviene che qualcuno resti qui con te. Se volete posso rimanere io. A me sembra che Lieto sia volenteroso di aspettare. Ma Bene. Lieto deve pagare per i vestiti. Pausa. Eddie. Quanto sei sveglio da 1 a 100? Oddio. Insomma, perché? Perché se resti con lui, facciamo la scena con lui. Quando vuoi te ne vai a letto e poi faccio la scena con loro. Non è una cattiva idea questa, a me Visto? piace come idea. Vai. Quindi, per motivi di trama, resta lieto. No, ma Vaffanculo, anche resta perché, giovane. scusate, al di là di questo, appunto, come ha detto Nibel, Lieto deve pagare, quindi non può rimanere lui qua. Sì, non Come se so, non stavo potessi pensando dargli i per andare soldi, a però. mangiare. Vabbè, sì, ma Volevo andare a fai tu il mangiare. daddy. Sì, Vai, facciamo. anche perché a Dona non Ci sta sta fame. cazzo di webcam, abbiamo la nostra scena. Ok, aspetta, arrivo. Detto Non la comodo. faccio durare un'ora, cioè. A gambe aperte. Come No, vuoi. scusate. Vi salutate, loro proseguono verso sud-sud-ovest e voi rimanete sul ciglio della collinetta che costituisce la parte alta sulla quale è costruito il tempio di Diru. State lì un paio di minuti e lo vedi che diventa un po' frantic, inizia a picchiettarsi sul collo, a muoversi e dice: vogliamo fare un giro? Sì, volentieri. Credo che dovremmo aspettare un po', quindi perché no? Vorrei vedere meglio com'è fatto questo tempio. L'ho visto solo da lontano. Negli ultimi 2 giorni sono andato in giro cercando di non farmi vedere troppo, mentre il mio corpo finiva di rigenerarsi. Però appunto ho visto da lontano tutto quello che c'è. La vostra cultura, la vostra società mi è molto difficile da comprendere. Al netto Beh, della presenza delle immagino. Vabbè. donne in società. Sì, quella è una cosa a cui ti devi abituare. Sei bizzarro. Lo dice con una certa serietà perché tipo la donna non è misogino. E però Ora. sorvolando un attimo su questo. Lasciagli un'altra Dice. settimana con Miff, poi ne riparliamo. E allora poi Dan dice, beh, sì, facciamo un giretto, ma non allontaniamoci troppo, alla fine ci andremo dopo con gli altri alla chiesa. Ok, fate il giro, praticamente ripercorre i passi che avevi fatto con loro, solo questa volta invece di costeggiare il fiume costeggiate la montagnetta. È quella zona un po' boschiva dove ti dicevo che nascondersi sarebbe facile, eccetera. Non c'è un cane di nessuno, ogni tanto passano degli uccelli al limite. E con comunque una certa distanza arrivate a vedere la ferrovia e la galleria. E ti incalza, cioè ti chiede: puoi dirmi di più su questo? Guarda, stavo proprio per dirti, Adone gli spiega. E allora Adone appunto gli racconta cos'è un treno. Ora io proverò a spiegarlo, ma boh. Dice, hai presente che, cioè, è appunto come quello che ha detto Lieto, non è sbagliato, un cavallo fatto di metallo che trasporta molte persone. Solo che appunto non esiste, non c'è il cavallo e semplicemente i manapenni, quelle monetine blu, sono l'energia, sono il cavallo che traina tutti questi carri fatti di metallo. Ma è una cosa molto più grande, molto più automatizzata, meccanica. Ma non capisco quale sia l'utilità. Trasportare le persone, più velocemente. Non avete il teletrasporto? Huh? Il cambio di musica dice... il teletrasporto è limitato in zone specifiche, non si utilizza in maniera così libera. Perché tu i tempi sì? Direi di sì. Tra Feira e le altre città collegate teletrasportavamo sia cose che persone quando ce n'era bisogno. No, noi diciamo nella mia città natale l'utilizzo del trasporto è quasi l'utilizzo esclusivo del governo e dei militari. In quel momento passa un treno che per te va veloce, va a 40 km orari, quindi è una velocità importante. Certo. E lui lo guarda tipo... Ma... è lento? No, è veloce. Un cavallo va più veloce di quello? Oggettivamente sì, cioè Adone gli verrebbe a dire di sì. Sì, è oggettivo... Sì, però comunque per le lunghe distanze è più efficiente. Il cavallo comunque dopo un po' si deve fermare, riposare, invece il treno può continuare fino a che non si decide di fermarlo. È confusissimo. E non... Vedila così. Un cavallo per una persona... comunque sì, va più veloce, però si ferma. Invece il treno può portare molte più persone e può andare molto più veloce. Cioè, no, non più veloce, ma può continuare nel tempo. Potete ammazzare il cavallo e resuscitarlo? Perché mai? Sì, ma... Così non ha bisogno di mangiare e dormire. Conosco delle persone che lo vorrebbero fare, ci hanno pensato di farlo, ma non sono state ben accettate le loro proposte. Sono confuso perché chiaramente su tanti aspetti questo è il futuro, siete molto avanti su tanti aspetti sociali, certamente, eppure la vostra tecnologia, la vostra comprensione della magia sembra una frazione irrisoria di quella che avevo io, di quella che avevamo noi. Ok, adesso cercherò di far fare... Che difficile non fare metaplay. Però Basri dice... anticamente voi, la vostra magia si basava sulle divinità, sostanzialmente. Se tu... non veneravi qualcuno, non potevi utilizzare la magia. Ecco, corretto? Con l'eccezione dei popoli barbari è corretto. Ecco, il fatto è che noi adesso possiamo appunto... abbiamo trovato il modo di farlo. Utilizzare la magia senza venerare una divinità. Ho anche capito. Se... il contrappasso... è anche vero che i manapenni vengono dalle divinità. No, intendo dire che senza divinità la vostra magia è ridicola. Sì. Sì, effettivamente ha senso. A lungo nella mia... Adesso vedi che Adone tira fuori un attimo le sue note e segna queste cose effettivamente, perché sono tipo... cioè, è ovvio, però tipo, boh, sono cose che a livello, secondo me, accademico non hanno ancora detto, ma per mille motivi. Tra cui che non... E poi sono queste le robe. Bravo. Come questo studiava Adone, però vabbè. Sì, esatto. E per lungo tempo nella mia città si è discusso sulla democrazia, su quanto potere dare al popolo e cosa intendere come popolo. Negli ultimi anni che ho visto, l'idea era che più era ristretto il popolo, quindi lo si riduceva agli uomini migliori. Uomini migliori. E più era efficiente il risultato delle scelte, delle opinioni, tutto quello che si faceva. Mentre se si estendeva troppo la democrazia, il risultato era di infangare con le opinioni di chi non aveva alcun merito, le scelte. Credo che la magia abbia qualcosa di simile in questo senso. Avendola estesa a tutti, da quanto dici, i manapenny li possono usare tutti, avete diluito tantissimo l'efficacia della magia. E mi chiedo se siate in grado di usare le magie base. Per esempio? Sai lanciare una palla di fuoco? No. Questo ai miei tempi sarebbe stato incomprensibile, intollerabile. So fare diverse cose, ma sono molto specifiche nel mio ambito e nella mia preferenza di magia, personalmente. Ho capito. Poi Dani ci pensa e dice, c'è però una cosa che ho osservato. Credo che alcune persone, utilizzando appunto manapenny specifici, e tipo prende fra i pochi manapenny che gli sono rimasti e gli fa vedere che ci sono i sigilli, cioè ci sono i Simboli. simboli diversi della zecca. Dice, utilizzando persone specifiche, utilizzando manapenny specifici con formule magiche specifiche, riescono a ricreare delle magie dei tuoi tempi, credo. Lo vedi che sta proprio pensando intensamente, si sta spremendo le meningi come fossero arance per fare una spremuta. Dovrei studiare l'argomento più approfonditamente. Una di queste magie è Incatatam Meiklon, com'è che si dice? Scusate, Cadone lo saprebbe dire, E lui te io lo sono un ripete po'. nella tua lingua, le profondità di Maeklon, certo. Esatto. Appunto, utilizzando un manapenny di Apera. aspetta, ah, ok, era di Apeiron, Lui ok, si sì, con un gratta il manapenny di mento, guarda sì. verso... è appena passato il treno e dice: ma in realtà la sapevo usare anch'io una volta. Tende il braccio e la casta. Così. Sì, il punto è che tu vedi che dal terreno, in corrispondenza di, come si dice, della ferrovia, non compare una miriade di mani come l'hai visto una volta là, ma compare una sola mano nera che afferra una degli assi di legno che costituisce la ferrovia, lo spacca e tira i frammenti nel sottosuolo. E dice: ah, beh, una volta ne faceva di più di Ma ha mani. fatto deragliare il treno, no, No, il treno vero? era appena passato. Ah, ok. Il prossimo treno. Il prossimo treno. Così? La sapevi usare così? No, ne creava molte di più. Non so cosa sia stato diverso. Senti questo odore? Guarda Adone verso annusa. sud-est, quindi oltre il tempio, cioè la cattedrale. Ok. Come se la mia magia fosse stata risucchiata da laggiù. Cosa c'è in quella direzione là? Non conosci la cartina di Apeira abbastanza bene da saperlo dire. Posso intuire, posso fare una congettura e dire che magari c'è una centrale in quella direzione. Perfetto. Dice, ah, interessante. Non vedo da là, perdonami. Vaffanculo, non posso farlo meglio di così. No, vai tranquillo. Stavo cercando di ricordarmi qual è la frase che ha detto Silas, tu sai quando. C'è su Faithless, sul canale di Faithless, la mappa. E che era per Staia, ma non mi ricordo la prima parte. Donna qualcosa. Va bene. Ok. Vabbè, e comunque dice, interessante. E se provi a recitare questa formula, e gli ripeto quella di per Staia che No, aveva utilizzato Silas. non è questione di recitare la formula. Lanciare una magia è composta di varie fasi, vanno assemblate tutte insieme per poterla lanciare. Sapere solo la formula non basta. Tra l'altro, Pelstaia Sì. credo sia più giovane di me. Ah, interessante. Quindi le sue magie sono nate dopo che mi hanno rinchiuso. Ah, O meglio, io non l'ho mai sentito capisco. nominare, quindi. Sentita, non so se sia un nome da uomo o da donna. Era gender flu, no, era non Sì, sì, era sì. gender fluid. Sì. Sì. Ok. Androgeno, Ok. definiscilo come preferisci. Capisco. Questa cosa della magia che è composta da più fasi che devi mettere assieme a livello moderno per Adone si applica sta cosa? La No. teurgia è letteralmente quella cosa lì. Cioè, Ah, ok, la è teurgia. la definizione by the book di teurgia. Credo te l'abbia detta Naya, in prima Sì. persona, una delle volte che vi siete mansplainati a vicenda le vostre materie. Bellissimo. Sono incredibile. Molto. E allora, ok, Se hai un'altra domanda, poi basta. Cioè, poi taglio. sì, sto pensando cos'altro chiedergli. Mi dai un secondo velocissimo? Vado a prendere da bere e No, sai, torno. sai cosa? O se vuoi, magari cioè, se vuoi interrompiamo un attimo Ok, qua. Ok. perfetto. E mi prendo da bere e arrivo per fare la Sì. vostra scena. Quindi pausa 5 Sì. minuti. Se dovete andare in bagno a fare robe fatte. A pra poco. Quindi erano le vecchie magie. Sì, beh, quello sì. Io mi chiedo cos'è che ha, tipo, per esempio, su Macron, cos'è che ha Nibel che può castarla? A differenza A nostra. parte i funghi, ovviamente, Parti. perché però cioè i funghi sono solo una manifestazione di quello che è Annibel. Esatto, cioè, quindi qual è il processo effettivo? Sì, alle 10. Non ho idea. Finisco alle 11. Vai, vai a pisciare. Va bene, qualsiasi cosa possa provare. No, c'è, che c'ha le cuffie, mi sa. Ci sono, ci sono. Beh, secondo Raga, me. io mi sa Devi che andare. però vado a nonna che, scusate, sto morendo di sonno. Vai, in Benissimo. character. Quindi, la Adonis si sdraia cosa? sul letto e si No, addormenta. no, no, no, no. L'ultima volta è andata Quella bene. di Discord, che cioè, ho schemato, certo, e posso fare tardi. Due parole a Ma beh, l'altra volta sono andato a letto alle 10:30, infatti, da mezz'ora guadagnata. Ma perché allora, ragazzi, scusate, ma da settimana prossima si dovrebbe sistemare questa cosa perché smetto di stare 9 ore al giorno davanti al computer a modellare. Minchia. Cosa stai mangiando? No, infatti, La crema fatta da mia nonna. cazzo. Buona. Condividi Ah, un po', passa. infatti. Grazie. Ah, che buona, Vianici. Niente. Allora, vi do la buonanotte, ragazzi. Scusate. Ciao. Buonanotte. Ciao. Che cazzo è? Allora, per me possiamo riprendere subito se volete. Quindi noi stiamo andando a mangiare, cioè la nostra quest Esatto. è farci una shawarma o qualcosa del genere. Effettivamente meglio dello shawarma alla fera. Non c'è molto. Eh sì. Adesso la domanda per il master che sicuramente ci ha pensato. Sì. Lo shawarma c'è già o no? Perché lo shawarma è ottomano. Se no un giro. Allora, l'agnello, la pecora, quelle robe lì ci sono. Ok. Non so quali siano i modi di farlo. Credo che l'abbiano importato. Proprio fatto come si fa oggi è una roba moderna. Quindi È no. una roba che precede l'invenzione del motore a vapore, se non altro. È Beh, ma si moderna. faceva proprio letteralmente sulle spade, tipo, metti nelle spade nella griglia. Capito. Cioè, la roba di metterlo in piedi che ruota è moderna, però la Esatto. roba della spada si faceva. Non Sì, ma so quello quanto vabbè, anni, quanti anni è fa. uno skewer, cioè con un altro nome Sì, c'erano sì. arrivati anche i romani. Quindi sì, una cosa simile c'è sicuramente, con un altro nome, ma c'è. Shawarma di Aveiro, ragazzi. 19° secolo. Non vedo un secolo, sì, lo sto guardando. Siamo in anticipo, mi sa. Anche Di qualche i secolo. gyros sono una roba moderna, cioè. Però c'è da dire che pure i treni sono in anticipo qua di Sì, qualche secolo, quindi secondo me cioè, esatto, la ma infatti, shawarma possono averla inventata un po' a prima. parte il nome e il fatto che sia verticale, secondo me c'è, ce l'abbiamo. Andiamo a farci lo shawarma. Oltre alla roba di Penso. carne, Capera è famosa per le fave e i formaggi. La tua frase è stata: se volete qualcosa di carne, Aperi è famosa per le fave e i formaggi. Se non volete qualcosa di Ah, carne. ok. In Grecia non c'erano neanche le coltivazioni di olive? Sì, però, cioè, credo più Con per la l'olio grande che non per oliva. mangiarti le olive. Sì. Beh, Atene era la grande oliva. Fighissima. Altro che Smoliv di. Beh, sta cazzata. Vabbè. Avete continuato lungo la strada, che è terra battuta, non è una strada vera, cioè vi siete inventati una strada in mezzo tra i boschi. Che terminano nell'estremità nord-est del quartiere di. Non mi ricordo come si chiama. Ovviamente non mi ricordo come si chiama. Comunque il quartiere meridionale di Apeira. E Nivel sa esattamente dove trovare il sarto, dove trovare tutto ciò che vi riguarda, che mi interessa, diciamo. Io vado a Tomeli, rifarmi. se ho trovato. Credo, aspetta. No, Pauperia. Bel nick, Tomeli era quello a fianco. Pauperia è il secondo quartiere più grande, credo. E di bassissima elevatura sociale, cioè ci vivono, non dico proletari, però qualcosa del genere, operai. E boh, c'è un po' di tutto. È una mezza favela. Andate prima? Cioè, qual è la prima cosa che cercate? Io vado sicuramente a farmi i vestiti. Infatti, sì, andiamo a prendere i vestiti. Ok. Non mi pare avessi sarti nel tuo background, vero? Nibel? Io? Ah, No, no. ok. Quindi non conosci qualcuno molto bene, conosci una sartoria generica dove, visto che siamo in vena di essere sessisti, ci lavorano delle gran donne. Tutte donne. Un gineceo di sarte che. Oh, niente, vi vedono. Chi entra per primo, fatemi. Cioè, l'edificio è super generico. Se non sapessi che ci lavora una sarta, perché appunto la conosci di vista o qualcosa del genere, sembrerebbe la casa di una persona, cioè un edificio, un'abitazione. Anzi, realisticamente è la casa di una persona che viene adibita a sartoria. E. Vai, ditemi chi entra e cosa fate. Io faccio entrare loro dentro per ultimo. In realtà mi do un'occhiata attorno per vedere se c'è qualcosa di strano che non si sa mai, onestamente. Direi che entro per primo io a sto punto. Esatto. Ok. Ti affianca. Allora, rispondo prima a Nibel. Il quartiere è tranquillo. Cioè, al netto di qualche ragazzino che fa pickpocket o cose del genere, non c'è criminalità organizzata in questa zona. Anzi, qualche gruppo ci sarà, però non sono attivi in questa zona, hanno delle safe house da queste parti. Detto questo, c'è proprio una piazza del commercio qui vicino, quindi è difficile che ci sia casini. Anzi, spesso ci sono le guardie regie. Sì, plurale di regio, vabbè. Sì, era giusto. Che pattugliano la zona. E okay. All'interno del palazzo, cioè della casa, ci sono due donne sedute che stanno filando e una terza che è al bancone che sta giocherellando con una penna. Quando entri alza lo sguardo e sono tutte tra i 50 e i 60 anni. Quella all'entrata ti squadra, vede che sei concio in una maniera disgustosa e dice: "Povero ragazzo, cosa ti è successo?" È una lunga storia e mi serve chiaramente degli abiti nuovi. Sì, però per ricucire quelli ci vorrà tutto il giorno. Vuoi comprare dei vestiti nuovi? Sì, direi che non ho un giorno da perdere. Magari anche... ci avrebbe per caso una tonaca tradizionale? Sì, qualcosa abbiamo. Siamo specializzati in stoffe di bassa qualità. Affordable in italiano? Viene il termine. Economiche. Economiche, alla portata di tutti. Alla portata di tutti, democratiche. Sì. E... per due manapenny posso darti due tonache. Beh, niente. Ok. Pochi due manapenny, senza problemi. Allora, ti danno più uno evasione, ste robe qua. Oh wow, davvero? Sì, se non avevi un'armatura, sostituisci la tua armatura. Tu avevi un'armatura di cuoio. Sì, ce l'avevo già. Quindi, l'armatura di cuoio la togli, la disequipaggi, se non vuoi andare in giro... vestiti distrutti. Sì, e gliela lascio da aggiustare. Ah sì, te lo faccio a gratis, sei così un bravo ragazzo. Torna domani, sul tardi, non prestissimo, sul tardi, la sera, le 5. E una te la metto nell'inventario per il momento. Okay. E l'altra te la equipaggio. Praticamente hai perso due punti vita massi con questo cambio di equipaggiamento. E ti segno i due manapenni tolti. La signora guarda gli altri e dice: "A voi serve altro?" No, grazie. È tutto a posto. Scusa. Dicevo, io con Nibel rimango un po' di sparte, con il cappello tirato giù, cerco di non farmi vedere il lato marcio. Non è così impicciona da guardare sotto il mantello, però è così impicciona da chiedere: "Da dove vieni di bello, ragazzina?" Ho visto che è un altro tico che per ragazzina. Brasica, signora. Così lontano? Sai, insomma, mi sono venuta a prendere un po' di callo. Mi fa questo sorriso. E lui chi è, il tuo fidanzatino? Sì, certo. E non ti compra neanche un vestitino? Lo vuoi e la vuoi tipo molto male. Biff fa... Temo di essere io qui la più ricca di... La domanda dovrebbe essere fatta al contrario. Oh, non metto becco su queste faccende. Lo vuoi tu? vestitino, cara. E Biff grazie, ti faccio una carezza alla spalla. Oh, un vestitino nuovo mi farebbe molto comodo a questo punto. Che carini che siete. Grazie per i suoi servizi. Grazie a voi. Domani. Buon lavoro, buona giornata. E tipo Miff che non vede l'ora di andarsi. Buona giornata. Rimango a ascoltare lascia... le vecchiette con calma, tipo. Sì, ti lascia tipo un biglietto con scritto la sua firma, che cosa devi ritirare, eccetera. Che hai già pagato. Bene, è più una bene. Formalità, però te lo lascio. Sì, sa mai. E niente, sì. Fai della small talk, ti raccontano gli ultimi avvenimenti del paese, questioni di politica, quanti immigrati che ci sono. Ora tutti scappano dal nord con sta scusa della piaga, ma io... No, lo so, signore, cosa ci possiamo fare? Li ammazziamo. Io non ho visto mai manco mezzo con sta fantomatica piaga. Non voglio dire che sono negazionista, ma... Sì, è un po' come i vaccini. Abbiamo già problemi qua. Hai visto? Sì, e sì. A sto punto, allora sono delle vecchiette cinquantenni. Dai, cinquantenni, sì, esatto. Sì, sì. Chiedolo a uno, chiedolo agli altri. Ma voi sapete per caso del... se c'era un vecchio tempio sotto al Partenone? Si guardano, ovviamente dici che la cattedrale di Dio a Pera. Sì. Dobbiamo trovarci un nome singolare che non sia Partenone, perché tutte le volte mi fa strano, cioè c'ha un significato che qua chiaramente non ha. E si guardano e dicono, no, non mi sembra. Beh, non però c'è... una delle vecchie, la più vecchia delle tre, che è quella al bancone, dice, c'è una leggenda, ma è una leggenda, che dice c'è... che... la dea del commercio costruì il suo tempio sopra i falsi dei, ed è per questo che è così elevato. Il nome della dea del commercio è? Diru. Ok. Il tempio dove siamo stati prima. Sì. Va bene, grazie, arrivederci. A voi. Arrivederci. Lavoro. Siete in questa via nella parte. Erano palesemente le Moire comunque. Esatto. Che fila. Dopo gli diamo oppure i nomi. Tre. Atropo, Lachesi e Cloto. Lo sapevo, sì. E ditemi cos'altro volete fare. Trovare un andiamo posto. A prenderci sta shawarma. Esatto. Ok, nella piazza si sente l'odore, quindi siete trainati da quello. C'è un tutti i giorni, a quanto pare, un venditore ambulante di carne. Praticamente questo squarta un tot di vitelli, agnelli, altri animali, ci infila un palo nel culo e li abbrustolisce in piazza. Sta cazzo di canzone ogni volta. Spettacolare. E... mi stai immaginando questa col volume molto alto, perché questi tre coglioni si prendono lo shawarma. E vabbè. Chi di noi è il vero Kira? Sì. E spoiler, tutti e tre. Lo affila, affila la sua lama e taglia diverse fette. Ok, chi paga? L'uomo è un uomo con grandissimi baffoni, proprio come spade. Do una comitata da Miff. Miff che fa assolutamente. Ognuno si paga il suo, no? Poi si gira verso Nibel e fa, ma tu hai i soldi? Sì, qualcosina ce l'ho. Guarda queste icone che fanno di fame, di peso. Vabbè, sta baffonchiando sti baffi. Che scusa, ti sembravo un barbone per caso? Ah, non lo sei? No, scusa. Beh, non ti biasimo. Beh, onestamente io avrei offerto. Adesso che avrei offerto, cioè appunto, avrei scusami. Offerto, l'uomo con le lame al posto dei baffi dice: un manapenny per 3 porzioni. Ah, ce ne vuole un imperatore e magari il tipo. Un manapenny per 6 porzioni. Lineare questo uomo, mi piace. Quadrato. 3 manapenny, non indovinerai mai. 10 porzioni. Li aspettavo. Per un manapenny lo metto io. E uno lo metto io. Ok, grazie mille. Adesso me lo segno. Devo finirlo di cuocere. E perché l'hai detto come un NPC di un gioco degli anni 90? Devo finirlo di cuocere. Ma ditemi, cosa vi porta? Come cazzo si chiama? A Pauperia. Spyro. Viandanti. Ti darò la shawarma. Esatto. È una domanda che ha fatto su. Sì, vi chiede come mai a queste parti. E qua c'è. Siamo degli archeologi, stiamo cercando. Io sono antico tizio. Tiro fuori il mio piccone, siamo qui per lavoro. Dalla Sefin? Sì. Io sono un transfer student della Zenith. Ah, vedo la spilla. Mia figlia studia la Sefin. Ah, e cosa studia sua figlia? No, non archeologia, studia scienze delle costruzioni. Ah, c'è tipo un po' il disgusto nella faccia di lieto. Un po' visto che schiaffeggia lieto. Ah, davvero? Sì. Beh, insomma, alla fine è più o meno lo stesso lavoro. Lei costruisce e noi... Li facciamo sottolineare, sì. Possiamo prendere lo schwarm e andare. Ecco, non è ancora cotto, deve essere ben cotto, altrimenti non è buono. Mi raccomando, buon uomo, senza cipolle, senza piccante. No, come senza piccante? No! Ma che c'è? Quale crimine? Alla mia età non lo reggo più. E con salsa yogurt? Salsa yogurt ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Non mi ricordo. Quindi lei non sa niente di templi nella zona? Antichi e vecchi? No, io vivo qua da tanto tempo, conosco i templi della zona, so che in fondo al quartiere c'è il tempio di Zagon e dall'altro lato del fiume c'è quello di Vama. E vabbè, il tempio di Diru. Non mi interesso particolarmente di queste cose. Storia non è il mio fiore all'occhiello. Sono più bravo col macete. A voi così per 6 volte sì. E buona giornata, volete della pita? Ve la offro. Sì, grazie. Grazie mille, vi dà un tot di pite piccine picciò, però ve ne dà un botto, quindi... Non ci hai detto come si chiama figlia, te la... glielo vuoi chiedere? Sì, certo. La scortese a questo punto, dopo che qualcuno ha fatto delle domande. Sai che c'ho davvero il nome? È davvero il nome? Sì, però devo cercarla perché sennò dico una cazzata. Allora attendo Nif intanto c'è roti agli occhi. Oh, allora, Kovos di cognome, K-O-V-O-S. Oh, aspetta che mo segno. Importante, la figlia del che bambaro. Kovos, K-O-V-O-S, ok. E di nome, credo Alea. A-L-E-A. Alea, sì. Alea, Alea Kovos. Aglia, la... no, cioè sì, architettura, fondamentalmente quella. Fa il corso di scienze delle costruzioni, scienze dei materiali, quelle cose lì. Ok, vi siete rifocillati, cioè avete il cibo per rifocillarvi, non vi siete ancora rifocillati. Beh, direi che mi sto... torniamo indietro per portarlo. Nel mentre si assaggia una pizza. Adone e Cronos. Allora, finalmente Cronos assaggerà lo shawarma. Devo chiedervi due cose. Uno, a chi metto le pite? Due, a chi metto il kebab? E io ce lo zaino, me lo porto io. Vai. C'è lo shawarma. Mi fa sei la shawarma, sei. Te lo segno io, ce lo segni te. Ma sei già lì, ci segnalo tu. Quante pite? Ma una decina, ne hai mangiato uno, ne rimango 9. Okay. Tanto c'ho lo zaino pieno di roba, posso portarmi lì. E devo rollare un D20 per decidere le pite, ma ho rollato 2, quindi niente. Teniamo 10. E io non so cos'altro farvi fare, perché non mi sembrava ci fosse altro di interessante. Datemi solo un secondo che faccio un rapido check dei miei cazzo di appunti. Vabbè, nel frattempo parlo con gli altri. Sì, vai, vai. Dico, che opinione avete su quello che abbiamo visto? Io onestamente ho un mal di testa. Sono stati 2 giorni più intensi della mia vita, probabilmente. Sono d'accordo, non i più intensi probabilmente, ma comunque un sacco di informazioni novelle. Cioè, pieni di fino a 2 anni fa l'unica cosa che facevo era piccolare la pietra, e negli ultimi 2 anni li ho passati solo ed esclusivamente a bere, a passare da una locanda all'altra, quindi tutto quello che ho visto ho fatto la solita cosa negli ultimi 2 anni. Andiamo a prendere un cicchetto. Volentieri. Credo che la mia fiasca sia rintinguare. Ci sta. Ci accompagni anche tu. Ovviamente. Qua. Bene, bene, bene. Non ve lo aspettereste, ma questa qui mangia e beve. Tu hai l'età per poter bere. Visto tipo abbassare spalle, no? Hai presente quanto proprio c'è, ti cadono le braccia e fa. Ho 26 anni, quasi 27. Ah. Penso di poter bere. You look 12. Saresti un po' più grande di quello che era. Sarebbe mia figlia, più o meno. Qualche anno in più. Sarebbe? Sì, non è più con noi. Ha cambiato città? Non proprio. Lieto. Le mie condoglianze. Non volevo andare su una cosa delicata. Tranquillo, tranquillo, non importa. Ma andiamo a prendere da bere. Ne avremo bisogno. Il cielo. No. Aspetta. È per lei che hai deciso di fare tutto questo? Diciamo che uno dei motivi. Ovviamente non ne voleva parlare, tipo i MIF, no, no, ma STEM, STEM, STEM. No, STEM, STEM, aspetta. MIF sorride fa, è mia regola. Come, scusa? Non t'ho sentito. È ammirevole. Se così si vuole, se così mi vuoi definire, non credo ci sia niente di ammirevole in quello che voglio fare. No. Cosa vorresti fare? Pura e semplice vendetta, niente di più. Aspetta. C'è la mano. Aspetta. Contro chi? Se vuoi darmela, volentieri. Prima voglio cercare di capire su chi indirizzare la rabbia che mi porto dentro. Non è una ok, no, non è una vendetta cieca. No? No. Probabilmente ci andranno di mezzo delle persone, su questo non ho dubbi. Però già lo fanno. Io sono una di quelle. La mia famiglia sono tutte vittime di quello che è la società attuale. Quindi guarda la città che è scomparsa per via della piaga. Quante altre calamità dovranno succedere prima che la gente si renderà conto che queste centrali sono soltanto che un problema. Abbiamo gli occhi annebbiati dai benefici che ci danno, ma purtroppo in pochi sanno la verità, chi ergersi per conoscerla, e oltretutto so che quei pochi che la vengono a conoscere una bella figura. Quindi sì, dobbiamo stare in guardia. Diciamo che la mia intenzione non è quella di essere un eroe, di rivelare la verità al mondo di quello che succede. Vabbè, basta sfogarmi, fare quello che voglio fare. Smantellare il più possibile. Probabilmente Cronos adesso potremo avere forse più informazioni. Non sulle centrali, però sicuramente magari apprendere magia nuova, più potente, più forte, armi per proteggerci. Se non altro, dubito sarà contento di sapere quello che succede nelle centrali. Era quello il mio intento, farglielo sapere e indirizzarlo verso il mio obiettivo, diciamo. Usarlo come arma, usarlo come ariete. Adone non sembrava molto contento di questa cosa, ma non è contento di niente, lascia stare. Mentre se la parola ariete vi colpisce, che sta passando per la strada, l'ariete. Fuchino, un uomo, un vecchio, più che ottantenne, che ha al guinzaglio una capra nera e un bastone nell'altra mano, molto curvo in avanti. Beh, potete ignorarlo completamente, cioè, mi fa ridere che hai detto ariete e perché mi ricorda qualcosa sta cosa, non me l'hai già parlato di può essere qualcuno con una capra, può essere. Devo andare a vedere se è background adesso. Se ce l'hai bene, se no non è così importante. È proprio un personaggio minorissimo. Ma ha qualcuno semplicemente ci ha tagliato la strada. Ah, sì. Sta passando. Non è il sacerdote del di Vama. Esatto. È il sacerdote di, non ho sentito. Vama. Ah, di Vama. La dea dell'amore. Ah, è un santuario che c'è qua a sud di Apeira. In realtà non è distante da casa mia. Ah, abiti meglio. Sì, abitavo, avevo i miei terreni, erano nei campi coltivati a sud, non troppo distanti dalla centrale. Da qua si vede la centrale, cioè è all'orizzonte ed è più alta degli edifici che avete qua, quindi si vede. Sì, se guardate là verso, verso la centrale, più o meno un terzo di quei campi era della mia famiglia. Un bel terreno, vedi? È un peccato che adesso ci sia quella struttura lì. Sì, c'è da un po', da una ventina d'anni più o meno. Li ho venduti tutti. Li hanno pagato o vi hanno sfrattato? No, loro hanno, in realtà hanno costruito la, la centrale al di fuori dei, dei nostri terreni. Noi poi ci siamo espansi per avvicinarci verso la, la centrale. Diciamo che per un po' di tempo è stata una convivenza, ma poi è finita come è finita. Al momento i terreni non fanno, non mi appartengono più. Lo, dopo che è morta mia figlia non avevo più legami con quella terra, ho venduto tutto. For the record, non sono più coltivati i terreni, eh? Andiamo a bere. E poi si ferma a guardare il signore. Ti colpisce che quest'uomo è cieco, cioè è palesemente cieco. Va in giro col bastone, c'ha una capra che lo sta portando in giro. Ma per... come fa a... a fare quello che fa? Cioè, tipo, Biff indica al sacerdote. Chiaramente non ci vede. Possiamo chiederglielo. Sacerdote... sacerdote Vamafilo, buongiorno. Salve. Chi sei? Sono Nibel, si ricorda di me. Oh, Nibel, certo. Come sta tua figlia? Sta bene, sacerdote. Tutto a posto. E lei invece? Col cambio di stagione mi fanno molto male le ossa. Sto andando alla spesa. Ma com'è che lei riesce a camminare, a districarsi per la città essendo cieco? La capra mi guida. La capra. Una brava capra. Quindi se adesso io le tolgo la capra e lei non sa tornare a casa. Com'è? Se adesso la capra, se succede qualcosa alla capra, lei non sa tornare più a casa. No, no, so tornarci. Ok, capisco. Posso accarezzare la capra? Certo, vai bella. Mi fa la grassa in mezzo alle corna, che è il punto dove non riesco a grattarsi, quindi gli piace un casino. E lo so perché ho già pettato le capre, ragazzi. Inizia a fare tipo scratch. Capra ci sta. Il sacerdote ha sentito qualche voce in giro, qualcosa di interessante? Di che genere? Sa di un tempio sommerso? Sommerso? Nascosto. Sì. Dove ci hanno costruito sopra? Costruito sopra? Dove sorge il... La Santa Chiesa di Apeira? Prima era un'altra chiesa. Era di un'altra divinità. La sua statua è ancora all'Accademia, la potete andare a vedere. Interessante. Non credo si sappia come si chiama. Suppongo siano informazioni perdute nel tempo, però sfortunatamente noi non siamo particolarmente così tanto religiosi, quindi... Ormai più nessuno lo è. Ma a parte lei, è vero? Sì, lei lo è. Io sì, certo. Venero Vama da quando ero bambino, la mia famiglia la venera da generazioni. Lei ci ama tutti. Ricordo ancora quando... quanti anni avrò avuto? Ero piccolo. Forse avevo 6 anni, 7 anni. Mio nonno, pace all'anima sua, evitò che venissero a radere al suolo la chiesa di Vama da solo, invocando la dea, fece scaldare i cuori di tutti gli invasori e loro si convertirono al culto invece di attaccarci. Tale è la potenza dell'amore di Vama. Wow, è incredibile. Secondo lei cenare è una cosa del genere? Ora. Me? Secondo lei può funzionare del genere ai nostri tempi? Certo, l'amore è ovunque. Basta crederci a sufficienza. Sono certo che sia così, sacerdote. Infatti, è tipo, vedete che Miss si tocca il fazzoletto che ha attorno al braccio. Sì. Può darsi che sia così. Ma venite alla chiesa ogni tanto, ragazzi? Sì, sì, certo, certo. Le portiamo solo... anche qualcosa per la capra. Sì, non solo per i matrimoni, ormai io vi conosco. Venite solo per sposarvi. Ma lo sa com'è, le agevolazioni. Ma c'è di più, c'è di più. Non ci metto piede da molto tempo, effettivamente. Magari potrei venire a fare un salto e salutarlo. Mi farebbe molto piacere. Temo di non avere ancora più molto tempo su questa terra. Ah, ma lei è giovanissimo, non si preoccupi. Camperà molto più di me, probabilmente. Dipende molto le abitudini. Bene. Se vedete mio nipote, gli dite che lo sto cercando? Chi è il suo nipote? Si chiama Teofrasto. Deve succedermi, dobbiamo fare il rito di passaggio e non si fa più vedere. Dove l'ha visto l'ultima volta? In chiesa. So qualcosa? È morto. Ok. Se lo vedo io lo farò sapere. Grazie. Se figuri, sacerdote. Faccia attenzione per strada, mi raccomando. Certo, tante buone cose. Che Vama vi protegga. Anche lei. Grazie. E prosegue molto lentamente in una direzione che a voi sembra casuale. Che... Non sapeva dove stava andando. Una statua all'accademia, quindi. Sì, una statua all'accademia. Adesso non gli abbiamo chiesto che forma c'aveva la statua. Beh, vai per esclusione, quella che non sai cos'è. Esatto, quella che non ha un nome. Io più interessato sapere se c'era un cuore o simile. Vama dovrebbe esserci all'Accademia. Ok. Che ha un cuore come simbolo. No, not so far. Come? No, niente, not so far. Come... Ah, ok. Bene, quindi andiamo a bere o torniamo da Adone? No, dobbiamo tornare dai tipi. Poi dei drinking, sappiamo tutti che non fa bene. Dei drinking. Ok. Ah, giovane, non vuoi neanche divertirti. Bah. Check the oriented. Voglio arrivare all'età del vescovo qua. Beh, non per la capra, non mi interessa, però... For the record, un uomo che ha più di 80 anni come questo qua, che ce n'aveva 90, è più vecchio delle centrali di mana tutte. Bello. È il boomer per eccellenza lui, quindi. Sì. Ai miei tempi non c'erano i mana penny. Esattamente. Bello. Visto in un mondo completamente sprovvisto di questa cosa. Beh, tecnicamente anch'io sono vissuto la Dapeira prima della... Esatto, tu hai visto la tua città senza mana penny, ma non è il mondo senza mana penny. Sì, cioè, sì, c'erano sì. Già altrove. E... ok. Bom, il resto della strada è abbastanza uneventful, quindi se volete parlare tra di voi, altrimenti ci appropinquiamo al finale. Sì, sì. Ok, per la prossima volta è prima di mezzogiorno. Ok. 11:30, una cosa del genere. E voi avete appuntamento alle... Avevano detto per il tè del pomeriggio. Di 4-5. Considera che siete quasi dal lato opposto della città. Quanto ci mettiamo a spostarci? Credo siano 6 chilometri. Sono... Cazzo. Sì, col treno non è tantissimo, a piedi è un bel po', è un bel pezzo. Sarà un'oretta. O 6 chilometri di... Eh? È un'oretta, un'oretta e mezza, sì, a piedi. Sì, un'oretta, è vero. Sì, sì. Più o meno. A posto. Allora mangiamo e poi ci... Mangiamo e prendiamo direttamente. Sì. E poi ci guardiamo bene l'accademia. Vediamo un po' di cose e al massimo parliamo questo Deimos. Boh, la chiudiamo qua.